Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo rientrati noi di 451 frammenti sonori e stasera ci alterniamo, diciamo, negli ultimi tempi. Io il buon Max, dato che le ultime due puntate le ha condotte lui in solitaria e io mancavo, non vi sto a spiegare il perché e il per come, anche perché penso non ve ne freghi molto, e condotte le due splendide trasmissioni passate, Disco No Disco 1 e 2, dal buon Max, che ovviamente saluto dalle frequenze di 451 frammenti sonori, e io ovviamente stasera condurrò, anche per una sorta di legge del contrappasso, la puntata da solo. Dunque, in collettivo, uso sempre questa forzatura piuttosto pesante, dato che siamo soltanto in due, rientreremo ovviamente ormai nel 2011, probabilmente la trasmissione del 10 gennaio sarà quella di riapertura, ma ve lo comunicheremo in caso nel blog, che in realtà è un no blog di 451 frammenti sonori. Ovviamente un saluto da Elisio Scarpa. Stasera viaggeremo su delle note piuttosto malate, quasi irregolari, rispetto anche al periodo natalizio, che ovviamente ogni anno ci tramortisce e ci ammorba nel periodo di Natale. Natale che è già partito da un mesetto a livello pubblicitario, però si sente un po' il momento non facile italiano, data che comunque la pubblicità e l'informazione rispetto ai consigli per gli acquisti, insomma, è abbastanza rarefatta, non è quella di qualche anno fa, dove ci bastonavano la testa con merci le più svariate già dal mese quasi di ottobre. Quest'anno è un po' più sottotono, come diciamo anche l'anno scorso, anche se il tempo qua a Bologna è devastante, neve, ghiaccio, tra poco fuori la radio troveremo delle renne a pascolare o qualche orso. Nel frattempo noi comunque resistiamo all'interno dello spazio di 451 frammenti sonori, e stasera la materia del contendere si intitolerà Aritmie natalizie. Ecco, ricordiamo anche l'aritmia, che cos'è? È un'irregolarità del ritmo cardiaco, dovuto poi a, può essere dovuto a delle patologie connesse appunto a qualche disfunzione del cuore, ma tendenzialmente l'irregolarità può essere anche causata del battito stesso, anche da momenti di paura, tensione, ansia e anche rabbia, insomma. E credo che in questo periodo di rabbia ne sta esplodendo parecchia, soprattutto, e questo noi di 451 vorremmo ovviamente tributo a questi ragazzi universitari della nuova leva universitaria e anche studenti medi, che devo dire che in questo ultimo mese forse sono gli unici che fanno realmente opposizione a questo governo e soprattutto a un sistema capitalistico, soprattutto quello italiano, che sta approfittando della crisi e sta togliendo ogni diritto, oltre che il problema del lavoro e del non lavoro, che in questo momento sta distruggendo parecchie soggettività. Noi da posizioni piuttosto conclamate dopo 10 anni di trasmissione abbiamo una posizione piuttosto radicale, continuiamo a mantenerla, e ci fa piacere che gente molto più giovane di noi forse sta avendo una determinazione superiore anche alla nostra generazione, e dunque ben venga che ci diano anche un calcio in culo, se finalmente potrebbe essere il modo forse per cambiare qualcosa in questo paese che è assolutamente impaludato. Aritmie natalizie, dunque, aritmie natalizie. Giocheremo ovviamente intorno al Natale, al non Natale, all'irregolarità dei ritmi musicali che attraverseremo stasera, e apriamo con un personaggio piuttosto eclettico e delirante, Felix Kubin, personaggio di Amburgo, un personaggio che ha lavorato prima di tutto con un futuristico noise band che si chiamava Klang & Krieg, e successivamente intorno agli anni 90 ha cominciato a portare avanti dei discorsi musicali estremamente sperimentali nell'ambito di un'elettronica piuttosto divertita e divertente, dove appunto ritmiche anche dance si intersecavano con rumorismi e soprattutto anche con delle dimensioni dadaiste nell'ambito elettronico, che andavano anche a pescare delle sonorità, delle melodie che ricordavano anche certe musiche che noi di 451 amiamo e abbiamo inserito anche in molte trasmissioni, cioè quelle delle colonne sonore nei 60-70, denominate poi negli ultimi anni lounge, come termine abbastanza paradossale e generico. E dunque iniziamo con Felix Kubin, il disco è Matki Vandalki, uscito nel 2004. dentro già il nome e tutto un programma. Iniziamo dunque con questi brani per allietare questo Natale aritmico e appunto irregolare. Speriamo diventi ancora più irregolare anche la Pasqua e tutte le altre festività successive, perché Pasqua intorno ad aprile, dunque forse qualcosa maturerà ancora di più irregolare in questo bel paese devastato come la nostra bella Italia, la nostra bellissima Bologna innevata. Felix Kubin. This is getting too technical for me. Thank you. che siamo rientrati in diretta dopo questa ballata quasi natalizia, però appunto abbastanza malata come ballata natalizia, e abbiamo ascoltato appunto il grande Felix Kubin, personaggio assolutamente unico nel panorama musicale elettronico, questa elettronica tedesca ovviamente tributaria anche di tutta una serie di grandi formazioni del passato, di un'elettronica anche estremamente suggestiva e importante. Da questo disco Matki Vandalki, 2004 appunto, uscito per la A-Music, e Kubin esprime tutta la sua grande duttilità e genialità e tutto il suo delirio musicale, che poi l'ha sviluppato anche attraverso delle strutture musicali anche differenti. Il personaggio non viaggia soltanto in ambito elettronico, ma segue anche tutta la scena, appunto, come vi avevo annunciato in precedenza, legata alla musica noise, ma un noise anche legato al lo-fi, che ritroveremo adesso nel prossimo progetto che andiamo a presentare, ma anche qualcosa che ricorda anche certe sperimentazioni elettroacustiche che l'ha contraddistinto soprattutto nella prima parte della sua formazione musicale. Un personaggio appunto che nasce con la formazione Klang Krieg e poi successivamente sviluppa dei lavori sempre più interessanti, anche maturi, dal 1998 fino agli anni zero. Disco questo, appunto, ricordiamo, del 2004, e da Kubin andiamo a ritrovare un'altra aritmia, un'altra regolarità natalizia attraverso un personaggio, anzi un progetto che poi è stato fondato da un personaggio piuttosto poliedrico, uscito proprio negli anni zero, Dave Longstreet, personaggio che esce dalla scena musicale inglese e che sviluppa attraverso anche collaborazioni nei primi anni zero un suo stile legato al lo-fi, ma anche attraverso delle produzioni musicali che esaltano anche delle forme quasi orchestrali con fiati abbinate ad esempio a delle vocalità quasi pop, come d'altronde in alcune parti sviluppa lo stesso Felix Kubin, un pop appunto piuttosto obliquo attraverso appunto costruzioni musicali piuttosto strane. E il progetto è Dirty Projectors, appunto, non è un gioco di parole fatto apposta. Longstreet oltretutto ha lavorato anche con altri progetti importanti degli anni zero, cioè The Microphones e Bobby Birdman, due personaggi che hanno sviluppato delle cose molto interessanti appunto nell'ultima decade. Andiamo a trovare di Dirty Projectors un album uscito nel 2005, The Getty Address, considerato dei più il più maturo e più interessante di questa formazione, e attraverso due brani che possono dare un'idea appunto di irregolarità ritmiche, ma non solo, anche strutturali da parte di queste musiche all'interno appunto di questo nostro viaggio piuttosto delirante e provocatorio connesso appunto alle aritmie natalizie. Un po' di irregolarità, un po' di aritmie appunto in questi ultimi mesi, in questi ultimi due mesi si stanno un po' percependo nell'aria. Speriamo che queste irregolarità diventino sempre più strutturali nei prossimi mesi. L'irregolarità, devo dire, attraversano un po' anche noi, ma anche su degli aspetti organizzativi. Infatti ci scusiamo, ne approfitto stasera, per coloro che utilizzano in maniera abbastanza assidua e continua il nostro blog. Ricordiamo ancora, è 451frammentisonori.noblogs.org, che le ultime due trasmissioni, sia per problemi tecnici connessi al sito e sia problemi anche nostri un po' di pigrizie varie, non l'abbiamo ancora purtroppo inserita all'interno di Noblogs, dunque cercheremo di velocizzare in questa settimana l'inserimento sia delle parti musicali, dunque del podcast in MP3 da ascoltare sul blog, e sia ovviamente anche un po' di scalette connesse ai progetti inseriti nelle ultime trasmissioni che stanno da un po' di tempo mancando, e dunque questo è un mea culpa, ma siamo anche noi un po' irregolari in questo, dipende da che punto di vista andiamo a guardarlo, ma insomma anche noi stiamo dentro questa aritmia. Ma intanto sentiamoci anche questi Dirty Projectors, piuttosto strani e particolari, li andiamo a ascoltare per prima volta all'interno di 451 frammenti sonori, The Getty Address. E dopo questo viaggio all'interno di questa dimensione assolutamente interessante e nuova dei Dirty Projectors, una combinazione piuttosto strana, quella di cantati sicuramente con chiari riferimenti pop, ma anche strutture quasi sinfoniche, sia con dei cori che con degli aspetti orchestrali, soprattutto connessi ai fiati, che ricordano anche ovviamente un certo minimalismo riportato appunto in una dimensione di dialettica con il pop, e questo sicuramente abbastanza particolare all'interno di una struttura musicale. Sicuramente da seguire anche gli ultimi lavori, oltretutto c'è un ultimo lavoro uscito da pochissimo, detto i Projectors, una formazione assolutamente anomala e atipica all'interno del panorama musicale, anche connesso chiaramente alla dimensione sperimentale. Dai Dirty Projectors continuiamo nell'irregolarità, nell'assolutamente non linearità musicale, e andiamo a trovare un personaggio che esce dalla scena dell'avanguardia tedesca, in particolare degli ultimi 15 anni, Wolfgang Mitterer, personaggio che ha sviluppato una forma di sperimentazioni connesse sia all'elettronica più pura possibile, ma anche ovviamente il trattamento di materiali sonori registrati, microfonati e poi trattati successivamente, dunque sia a materiali connessi a nastri, a registrazioni appunto ambientali esterne, poi manipolate e ricostruite successivamente. In particolare, all'interno appunto della tematica di stasera legata all'aritmia, all'irregolarità, alla non linearità, andiamo a trovare un splendido lavoro uscito nel 2003 su commissione del Southwest German Radio, per un festival abbastanza importante che viene svolto annualmente appunto in Germania, una performance radio oltretutto, infatti poi rielaborata successivamente, e successivamente creato un doppio CD, un album appunto intitolato Radio Fractal Beat Music, dove appunto l'aspetto della strattezza teorica connessa poi a questi frammenti registrati e l'inserimento ad esempio di elementi vocali, ma anche suoni, rumori inseriti in maniera anche abbastanza occasionale, strano, inseriti in maniera assolutamente imprevedibile all'interno della struttura musicale, crea sicuramente un forte disorientamento nell'ascolto e sicuramente una strana sensazione appunto di irregolarità continua nello sviluppo musicale. Abbiamo tratto ovviamente una sola traccia da un disco che dura più di un'ora e mezza, e andiamo appunto a sentire un estratto che dà un'altra idea ovviamente di una ritmia che può essere inserita nel panorama natalizio, anche se siamo ancora a 5 giorni dal fatidico elemento di festività ormai tradizionale in questa Italietta che ormai conosciamo da molto tempo, e in questa anche Bologna che si tinge di luminari e di varie cagate. Oltretutto mi è capitata una roba stranissima ieri, passando vicino a via Marconi, su dei piloni già improponibili di loro come struttura, credo che fossero oltretutto dei piloni di strutture appunto di edifici addirittura dell'epoca fascista, inseriti delle cose in plastica che ricordavano in maniera veramente piuttosto delirante dei Babbi Natali, e una scritta vicino in cui i negozianti intimavano ai vari vandali che passavano di là di non rompere più questi strane costruzioni in plastica che praticamente coprivano gli interi piloni, e mi veniva veramente da ridere pensando appunto a come si è piccoli in tutte queste cose, anche per certi versi abbastanza trash nel difendere delle cose improponibili natalizie, in cui appunto sembra che in questo periodo tutto si debba fermare, tutti diventiamo più buoni, non si sa di che cosa. Comunque andiamo oltre, andiamoci a sentire Wolfgang Mitterer con Radio Fractal Beat Music, e continuiamo nelle nostre irregolarità, nelle nostre aritmie natalizie. Ha ha ha ha! Why? Вот, помню. Right. piaceva molto. Ed eccoci rientrati velocissimamente, dato che comunque la traccia si allunga e si sviluppa collegandosi a quella successiva, e dato che il tempo è tiranno andiamo a chiudere la prima parte della trasmissione velocissimamente dopo questo bellissimo frammento tratto da questo vero e proprio capolavoro di Wolfgang Mitterer. Abbiamo ascoltato anche chiari riferimenti anche di un jazz e addirittura di un jazz rock funky estremamente ipnotico, con anche sonorità e suoni di forte derivazione anche industriale. Veramente un disco da ascoltare, da andare a cercare, a trovare questo lavoro splendido, Radio Fractal Beat Music, uscito nel 2003. Velocissimamente chiudiamo con una sorta di ninna nanna o di gioco antinatalizio costruito dall'anarchico assolutamente delirante Frank Pal, che ritroviamo all'interno di 451 frammenti sonori da un altro album, The Back of Beyond, uscito nel 2005, e concludiamo con questo piccolo frammentino di chiusura che probabilmente sarà anche un po' massacrato dall'intervento del radio giornale di Radio Popolare. Al ritorno dopo il radio giornale rientreremo nella seconda parte di Aritmie Natalizie. Ovviamente buon ascolto ancora. Thank you.